ancora l'inverno del nostro sgomento? Si è fatto estate al bel sole di York. E le nubi che minacciavano la casa son morte sepolte nel fondo del mar. Marte imbronciato ha disteso la fronte invece di correr su armati destrieri per terrorizzare gli avversari frignoni. Si intrufola agile in stanze di donne al suono di un liuto lascivo e sensuale. Ma io che non son nato per far l'atleta, né per specchiarmi ammaliato in un vetro, grezzo di stampa e di grazia carente per farmi notar da giovenca in calore, io defraudato di ogni armonia, nei tratti imbrogliato da infame natura, deforme, incompleto, mandato anzitempo nel mondo dei vivi, sbozzato a metà, e così zoppo e del tutto sgraziato che cani mi abbaian se non mi fai là. In questo squallido tempo di pace, altra gioia non ho per trascorrere i dì, se non osservar la mia sagoma al sole e divagar sulla mia deformità. Più feroce di uno sciame di cavallette, più oltraggioso di un calcio in uno stinco, dopo aver fatto cagare addosso gli scozzesi e aver sgominato i barbari invasori, ecco signori miei, reduce dagli ultimi successi sul campo di battaglia, ancora tutto sotto di fango e sangue, spremuto baldamente dai corpi spudellati degli infami oppositori, l'eccellentissimo, l'inimitabile, il prodigioso Riccardo, illustrissimo duca di Gloucester, il flagello dei nemici, la sciagura dei malvagi, colui che ha saputo mettere in scacco l'esercito avversario a son di sganassoni e ha preso a calci in culo quei disgraziati dei Lancaster. Viva Riccardo, viva Riccardo, viva New York e viva Re Edoardo! Mamma! Non ti preoccupare, Riccardino, Edoardo è buono, non vuole fare il prepotente, vero Edoardo che ce lo fa giocare Riccardino con la corona? Dai, su, sei più grande, dagli a 5 minuti, vedrai che gli passa. Edoardo? Grazie. Io credo che Dio non sia stato buono con me. M'ha fatto troppo umile. Troppo sensibile. Non riesco a guardare le cose del mondo in modo sereno, senza mettermi in discussione. Cerco sempre di capire dov'è che ho sbagliato, cos'è che posso migliorare. Dopo un po' è stancante. Uno arrivato ad un certo punto dovrebbe potersi accettare per com'è, dovrebbe poter dire «Questo sono io, prendetemi così!» E invece no, sempre dietro a quello che gli altri pensano, quello che gli altri dicono. È snervante, comincia a entrarti nella testa un tarlo che rosicchia, rosicchia. Uno alla fine rischia anche di apparire sgradevole e scorbutico perché la gente mica capisce. La gente è cattiva, ti giudica, ti critica. Non sa che dietro determinati atteggiamenti a volte si nascondono dei disagi, delle insicurezze. La gente ti mette al muro e ti sputa addosso come se niente fosse. Il nostro re Edoardo è molto ammalato. Non ha fatto altro che riempirsi la pancia di schifezze. È uno che non si regola, non sa gestire i vizi. Anche con le donne si è sempre lasciato troppo andare. Giorgio no, l'altro mio fratello, lui è sempre stato molto composto, pacato. Pure troppo. Un eterno indeciso. Il bello di avere dei fratelli è questo. Crescere nella diversità. Essere costantemente stimolati a comprendere chi non è come te, a convivere con altre necessità, con altri bisogni. Riccardo, io esco, C'ho un puntanone fra le mani che te una idea. Tutte le sere mi sfinisce, mi sporpa. È una sanguisuga. Ma te cosa fai? Sempre in casa, io uso un bagno. Guarda che non è che più lo tiri più si allunga, Buona! Edoardo! Si è sempre preoccupato un sacco per me. È che io da piccolo non ero proprio quello che si può definire un fusto. Avevo delle difficoltà. Il bambino non può giocare a pallone, il bambino non può andare in piscina, il bambino non può fare ginnastica, il bambino non può correre. E allora uno che fa? Sta a casa e pensa. Pensa alle possibilità. Quando non ti è permesso di fare nient'altro, le possibilità sono la tua unica risorsa. Quello che sarebbe bello fare, quello che un giorno, magari con un po' di sforzo, uno forse potrebbe anche togliersi la soddisfazione di raggiungere. E allora sogni di conquistare le Americhe, di dare la caccia agli indiani, di radere al suolo intere nazioni. Fantasie giovanili. Mamma, vado giù a giocare! Hai finito i compiti? Sì, non è vero! Ha giocato a fare la guerra tutto il tempo! Riccardo, non ti muovi di casa fino a che non hai finito! Ma gli altri mi aspettano, vanno tutti a vedere i soldati che passano! Non sento storie, se non ti riescono chiedi a Giorgio e fatti aiutare! Ma io gliel'ho chiesto, ma mi ha detto di andare a quel paese! Non è vero! Mi sono offerto ma lui mi ha dato una spinta! Ora sta in punizione perché hai messo le mani addosso a tuo fratello! Ma perché a lui gli credi, a me no? Perché lui è buono e tu sei cattivo! Non è vero! Non sono cattivo! Non sono cattivo! Aia! M'ha pestato il piede! Chiedi subito scusa a tuo fratello! Scusa una mazza, ringrazi Dio che non gli ho infilato un dito in un occhio! Ah, non me l'hai infilato un dito nell'occhio perché non ci arrivi, nano tappo, sei alto un metro una sabatta! Cosa hai detto? Ripetilo se c'hai coraggio! Nano, sei un nano! E stai zitto, mezza fega! Maledetta carogna! Non sono basso! Non sono basso! Il nostro re Edoardo è molto malato. Sua moglie, la regina, quella santa donna, è molto in apprensione per i figli e loro, poverini, non sanno che cosa aspettarsi. E Giorgio? Il fratello Secchione? L'ho fatto rinchiudere! Anche perché, voglio dire, prima sta con noi, poi contro di noi. Poi si sposa con la figlia del Locco che ci vuol vedere tutti morti, ma poi ci ripensa e l'ammazza, la Locco. Prima sta da una parte, poi dall'altra, poi da una parte, poi dall'altra. Alla fine uno, anche per evitare che gli venga il mal di testa, lo prende per un orecchio e lo butta nella torre, no? Perlomeno lì sta fermo. Questi mi mandano in bestia. Quelli che campicchiano. Quelli che per sopravvivere tengono un piede di qua e uno di là. Ma come si fa? Chiari bisogna essere, bisogna sapere che cosa si vuole. Altrimenti la gente se ne approfitta. Ti mette in bocca cose che non hai mai detto, ti accusa di cose che non hai mai fatto. Ed ecco che finisci nella torre come un coglione. Giorgio, duca di Clarence, sei accusato di tradimento. Pum, nella torre, cretino. Ma perché io cosa ho fatto? Non ho fatto nulla. Appunto, non hai mai fatto nulla. Ma io non do giudizi, non prendo posizione. Per me sono tutti bravi, sono tutti simpatici, ora lo vedi. Ogni creatura di nostro signore è degna di essere rispettata, coglione! Quelli così mi mandano in bestia! Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione del TG. G. È con sommo rammarico che siamo costretti ad aprire quest'oggi con la notizia che ci è giunta in redazione pochi istanti fa della scomparsa del duca di Clarence, Giorgio, il cui corpo, a quanto riportato dalle principali agenzie, pare essere stato recuperato all'interno di un fusto di malvasia conservato nelle cantine reali sottostanti la Torre di Londra. A quanto pare il corpo riportava evidenti ferite da taglio che, stando a quanto dichiarato dagli esperti che hanno effettuato i primi accertamenti, dovrebbero aver lacerato gli organi interni, provocando la morte del suddetto, ricordiamo, prossimo alla quarantina, per emorragia, prima ancora che per annegamento. Vogliamo precisare al pubblico a casa che quando utilizziamo il termine emorragia vogliamo riferirci ad una cospicua e sostanziosa fuoriuscita di sangue che nella maggior parte dei casi provoca un lento, lentissimo ma inesorabile decesso. È facile intuire quindi che la vittima, oltre all'immaginabile dolore provocato dalla lama, leggo per puro dovere di cronaca, uno stiletto delle dimensioni di 37 centimetri, conficcato ripetutamente nella zona lombare e inguinale, per un totale di, ben si stenterebbe a crederlo, 48 coltellate, complimenti, giunte a segno con forza tale da spappolare gli organi interni e produrre una serie di lesioni plurime e letali alle viscere. La vittima, dicevamo, avrà quasi sicuramente percepito l'avvicinarsi del suo ultimo istante. È facile intuire quindi che i suoi ultimi pensieri fossero rivolti alla moglie, attualmente stato civile vedova, e ai tre bambini che lascia orfani di padre e che da qui in avanti avranno vita non semplice. In fin dei conti, i ragazzini sono delle bestie, immaginatevi che cosa non gli diranno a scuola, ai quali però vogliamo rivolgere tutto il nostro sincero cordoglio. Ma passiamo adesso ai consigli della nostra rubrica enogastronomica Buon Gusto. Il vino che vogliamo presentarvi quest'oggi è un vino da meditazione, dal colore chiaro, dal gusto dolce e intenso, proveniente da vitigni pugliesi e con accenti che ricordano il più celebre moscato, il Malvasia. È un ottimo alleato per i momenti di riposo. Affogate le vostre preoccupazioni in un bicchiere di Malvasia. Salute. Che poi, se stai a vedere, il problema non è tanto chi comanda, come comanda, quelle sono questioni secondarie. Il problema è sapere di non avere rivali. Sì. No, meglio, sapere che i tuoi rivali sono in qualche modo controllabili. Ecco, l'importante è sapere che chi ti sta accanto ti teme. Questo mi fa stare bene, quando uno mi guarda e si cacca sotto. Allora io sto bene. Poi sì, ovvio, il potere fa anche comodo, per carità, ma quella è una conseguenza. Voglio dire, è normale che chi nasce che la sa più lunga degli altri prima o poi arriva a comandare, no? Non tanto perché è più furbo, quanto piuttosto perché quelli che gli stanno attorno prima o poi si arrendono. Non ci avete mai pensato? Lasciare che sia un altro a decidere è molto più rilassante. Lassù c'è uno che briga, che lavora, si spezza la schiena tutto il giorno per decidere se è giusto fare questo o quest'altro, e tu che fai? Te ne stai sul divano e ti limiti a dire «Grande, lo sapevo!» oppure «Ma guarda sto stronzo!» Fine. Ma quando passo dopo passo, giorno dopo giorno, riesci ad arrivare al punto che uno ti guarda e si cacca sotto, porca puttana! Ti prende un brivido su per la schiena, ti arriva al cervello e ti spappola il cranio dalla goduria. Questo è fenomenale. Sei il re del mondo. Anna. Dolce santa. Essere indifeso e delicato. La tua stupidità è seconda solo alla tua bellezza. Ma che ti aspetti dalla vita tu? Eh? Come pensi di cavartela? Sei inutile. Inutile! Io non ce l'ho con te. Non penso tu abbia delle colpe, ma neanche i tuoi genitori che ti hanno fatto, ti hanno coccolata, ti hanno viziata, ti hanno impedito di conoscere il mondo. Sei diventata una bambolina di cristallo, ti si deve maneggiare con cura. Ma nella tua inutilità io ci trovo poesia, così ingenua, così pura, che Il rumore e le schifezze del mondo sembra quasi non t'abbiano neanche sfiorata. Sei un miracolo. Un vero miracolo. Che c'è? Perché piangi? Perché? Sì, il tuo babbo non c'è più, sì, se l'è portato via la guerra. Anche il tuo sposo non c'è più, sì. Se l'è portato via la guerra. Sai, la guerra è una cosa brutta che fanno i tati grandi quando... Cosa c'è? Hai sete? Hai fame? Cosa? Ancora con questa storia? Va bene, sono stato io, lo ammetto. Li ho ammazzati io quei due cagnacci ladri che ci volevano fottere a tutti quanti. Ma che ti credi? Eh? Che ti credi che uno si sveglia la mattina e decide, sai che cosa c'è? Oggi non so che cosa fare. Vado a scannare 4-5 di quelle capre del Lancaster. Ci sono dei disegni dietro, delle necessità più ampie. Non ci credi? Non mi sono portato le carte dietro, ti assicuro che è andata così. Cosa vuoi? 100, 200, cosa vuoi? Dobbiamo provare a comunicare. Ammetto, in tutta onestà, che queste sono le mani che hanno mandato all'altro mondo il tuo povero suocero e il tuo diletto sposo. Quindi? Ma che mi guardi? Ma cosa mi guardi, cretina deficiente stupida come una pigna? Mi guarda! Mi guarda! Se mai Buckingham, che sarei io, rivolga il suo odio contro vostra grazia invece che amare voi o i vostri con ogni doveroso affetto, Dio mi punisca, ostia, con l'odio di coloro da cui più mi aspetto amore, quanto più abbia bisogno dei servizi di un amico e più sia sicuro della sua amicizia, finto, falso, traditore, pieno di inganni, sia lui con me, questo chiedo a Dio... quando si raffreddi il mio amore per voi o i vostri, la so. Sì? Ma gli ho mandato 3 mignotte l'ultima volta, che cazzo ci fa? Ah, non mi hai detto che non gli tirava più? Ah, si è organizzato? Ah, che si è preso il Viagra? Fa fare a un'altra guarda. E chi è questo? Ma non era una checca, scusa quel. IB Partisan, ho capito. Vabbè, dimmi dove te la devo mandare. Ragazzi, però, che cazzo, non è che posso pensare a tutto io, porca. Ho capito, ma te le trovo, te le incarto, devo spendere pure i soldi del trasporto. Ma che cazzo me ne fa? Ma mandate un elicottero, qualche. Sto spendendo più di autisti io che la McLaren. Ma che cazzo me ne fotte a me se deve sembrare tutto casuale? Ma come fai a pretendere che ti arrivino in casa tua in uno chalet in cima ai monti che nemmeno Messner ci arriva se non c'è navigatore? 10 gnoccolone in tubino nero? Che andranno anche imbottiti di tachipirina perché sennò quelli li prendono a sincope e ci fanno pure causa. E che poi così nell'eventualità, secondo di come butta la serata, magari ti fanno anche un pompino per caso. Ma che cazzo c'avete nella testa? Vabbè, sì, ci va bene, ti voglio tanto bene anch'io, sì, va bene, non ti preoccupare, vai, ciao caro, ciao, affanculo, vai testa di cazzo, rotto in culo, figlio di una troia, porca merda, in culo. Pronto carissima, come stai? Tutto bene? La piccola sta bene? Anch'io bene. Bene, scusa se ti disturbo, ma ci sarebbe da fare un viaggetto. Buonasera. Era tanto una cara persona. Oddio, sulle prime faceva un po' strano in realtà, anche perché lo vedevi arrivare tutto vestito, tutto profumato, con un sacco di gente intorno. Che quando me l'ha presentato Buckingham, mi ha spiegato che era re. No, ti pare? No, se sapevo che era re Edoardo IV, non mi ci mettevo. Oddio, era carino, eh? Elegante, distinto. Regale. Ma quanto mangiava? Quando si andava al ristorante i camerieri impazzivano. Chiaro, non è che tutte le sere ti viene a cena il re Edoardo IV. Un minimo d'agitazione era anche comprensibile, ma questi li vedevi. Entravano e uscivano da quella cucina, portavano primi, secondi, quaglie, lasagne, contorni di tutto. E lui zitto, Stava la testa nel piatto e mangiava. Quanto mangiava? Io cercavo, sai, di approfondire la conoscenza, di intavolare una discussione. Niente, testa bassa, tutto goppo. E mangiava. Al massimo faceva con la testa, niente di più. Una volta si avvicina al cameriere e fa: Sire, ci sarebbe saldare il conto. Fece una piega, lo guardò, fece sì con la testa. Appena visto ci girò, attaccò un fugone. Oh, era grosso, ma in quei casi sembrava un furetto, sembrava. Poi il giorno dopo mandava uno a pagare, li risolveva, non è che gli mancassero mezzi, era soltanto, diceva lui, per avere l'ebbrezza di fare qualcosa fuori dalle regole. Era tanto una cara persona. Ci è arrivato adesso un aggiornamento riguardante le condizioni fisiche del nostro sovrano re Edoardo IV, attualmente convalescente, come saprete, per un'acuta infezione che ha colpito la regione intestinale. Leggo assieme a voi che a causa dell'aggravarsi della situazione, come denunciato dal bollettino che i medici hanno reso noto, la famiglia reale ci fa sapere che il protettore designato alla salvaguardia fisica e morale dei due principini, ricordiamo il primogenito re del trono, principe Pier Edoardo di Galles, di anni 13, e suo fratello Pier Riccardo, duca di York, di anni 11, è per espressa volontà del re indicato come per espressa volontà del re indicato come Riccardo duca di Gloucester, fratello di sua maestà e, come tutti ricordiamo, grandissimo figlio di della patria. A questo proposito, se mi è consentito esprimere un'opinione, sì? Mi fanno cenno dalla regia che non mi è consentito esprimere un'opinione. Non ci rimane altro quindi che salutarvi ed augurarvi una piacevole serata. Arrivederci! Ragazzi, ma come cazzo si fa? Ma chi è che si è inventato sta storia? Ma è vera? Ho capito, ma questo è un criminale! Ragazzi, ma dai, ma è folle! Ma... Oh, no! No! Ma dai! Oh. Eh? Ah, sì. Vai, vai, vai. Sì? Ma non ho detto... Ma non ho detto... Ho capito, ma mi ha attraversato un attimo... Ma non... Vabbè, non è che in assoluto ora non può... Ho capito, per... Come licenziato, che cazzo significa? Ragazzi, non facciamo... Allora mi dovete dare perlomeno 3 settimane di preavviso da contratto, per cui... C'è una famiglia da mantenere io! Pronto? Pronto? Marta! Marta, scusa, non è che potresti venire a darmi una mano? Vorrei togliermi un po' di po'... Faccio da solo? Ah, sì. È solo per... Faccio da solo. Ok, sì. Già. E vado allora un attimo in camerino, che così vedo se mi riprendo un po'... Non c'è più camerino? Ma no... Vabbè, dai, vado nel bagno, che... Hanno appena pulito e non si può entrare. Va bene. Niente, allora, la giacca te la porto domani, mi cambio in macchina. Come mi hanno portato via la macchina? Oh! Se anche gli alberi parlassero. Ogni fruscio di fronde porta dietro discorsi riferiti, parole di disprezzo, minacce, insinuazioni. Stare in mezzo agli altri è come la trincea. Non sai mai quello che potrà accadere. Se ti si avvicinerà un tuo compagno per toglierti la borsa, se ti arriverà una lettera portandoti notizie dolorose, non lo sai. Puoi venire attaccato, ferito, ucciso. Sono mille le variabili. Parole nell'orecchio, carte sotto banco, incontri, piazze, assembramenti. E tu, il mezzo, a reggerti l'elmetto. Perché una bomba quando arriva in testa brucia. E allora quando senti il fischio devi cercare una via di fuga, devi evitare gli sgambetti, evitare che chi è rimasto indietro ti si aggrappi e ti rallenti. Non c'è tempo da perdere. La guerra è guerra. Messaggio alla nazione a reti unificate. Oggi, 9 aprile, nell'anno di grazia 1483, dopo lunga e penosa infermità si è spenta alle ore 16:47 la vita del nostro amatissimo sovrano re Edoardo IV. I funerali di Stato avranno luogo nella giornata di domani, per la quale è previsto inoltre il rispetto dell'assoluto lutto nazionale. Io che sti giornali ci sto a capire niente. Testuali parole da regina. Caro direttore, e vabbè, questo si capisce. In questo momento non è la regina che parla, ma la donna. E che vuol dire? Ah, come a scala 40. La regina e la donna sono lo stesso, mo ho capito. Allora, trovo assolutamente inaccettabile l'atteggiamento mostrato dal duca mio cognato. Riccardo, il duca de Croste, o struppio, che in modo del tutto in wrong, come parla questa? Nei confronti del dolore ancora vivo, pa' recente perdita subita dalla famiglia, no, è morto il re, con due parole, se poteva dire. E proprio a vigilia dell'incoronazione ha ritenuto opportuno far arrestare mio fratello, suo fratello, e li parenti sua, che si erano offerti, tanto carucci aggiungo io, d'accompagnare il principe del ritorno dalla residenza sua dello Yorkshire. La residenza sua del cane? Non ho capito! Tutto ciò gravato da non aver mantenuto fede alla promessa fatta sul letto dei morti. Io comunque un'idea me so fatta. Sì. Anche perché il duca de Croste a me mi è sempre sembrato tanto una brava persona. Ammazza! Oh, sempre che va di fretta, sempre di corsa. Per sto paese si è fatto un 4, eh? Nonostante tutte le calunnie e tutti i complotti che ha dovuto subire. I parenti da regina, fammi capisse, quelli che hanno arrestato, quelli hanno pizzicati, gli hanno pizzicati perché quando che sono andati a prendere il principe e portarlo a Londra per l'incoronazione, si erano portati dietro dei botti. E botti, nascostesi i cari, tutte piene d'armi, de spade, de pugnali. E perché se le erano portate? Ammazzare Riccardo, no! Ah no! Per fargli le scarpe al duca de Croste! Poi, sti intellettualoni, gli intelligentoni, gli avversari di Riccardo, quelli che c'hanno un cazzo da fa da mattina alla sera, si sono inventati che era dice perché dovendo, secondo loro, il principe lascia la residenza nella quale gli ultimi anni aveva abitato, che pare ci avessero mannato perché sti ragazzetti dalla periferia sono di scarmanati. Allora quelli dice che se ci manni il principe che si piazza là 4-5 anni, magari forse a poco, si carmano. L'allero era normale, sempre secondo loro, che dovendo il principe ritornare a Londra per l'incoronazione, assieme ai bagagli del principe, ci fosse pure equipaggiamento da scorta. Che giustamente se ci manni solo il principe e mezzo ragazzetti scarmanati, quelli che fanno un buceponno pure i soldati. Ma ci hanno avuto il coraggio di spiegarci che se veramente questi avessero voluto ammazzare Riccardo, le armi si sarebbero tenute addosso e non nascoste nei botti. Ma dico io, ma se può essere più fregnone di così? Ma è chiaro che è tutta una montatura, una manfregnaccia colossale ma grossa come il sole, ma scusate! Ma se questi si presentavano in faccia a Riccardo armati e tutto punto, ma manco gli facevano avvicinare, gli davano due pizze e gli mandavano a casa, no? E su, e namo, e me fanno ridere, me fanno sti fregnoni, questi che se ne stanno nei salotti a farsi le canne, a farsi le piste, e poi, e pista una volta, e pista due volte, alla fine se fanno pure pista, e me fate parlare! Da sti transoceanici qua, com'è che si chiamano sto omini che zinne? Ma dico io, ma poi la gente, sti fregnoni, che fanno? Manco un giorno hanno lavorato in vita loro e se permettono di criticare sto poro Cristo, poraccio che non c'ha un attimo di pace per starsi tranquillo a casa a guardarsi il televisore che ci batte! E che perlomeno gli piacciono le donne! Ah, e namo, e mo' detta! Ma lassateo fa! Lassateo perde, poro figlio! Sapete che c'è? A me mi piace pure! O trovo un bell'uomo. Date retta a me. Meno male Riccardo c'è. Untag lieben Klausen Globen. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. Pronto? Buckingham, non mi sento per niente bene. Sì, lo so che quei tre disgraziati dei parenti della regina li abbiamo arrestati, quindi li decapitiamo appena possiamo. E che non abbiamo ancora escogitato un modo per rinchiudere tutti e due i principini nella torre, lo capisci? Lo so che quello grande me l'hanno affidato, quello è già blindato nel sottotetto, ma la regina è andata a chiudersi dai preti con il piccoletto, lo capisci? Ha chiesto asilo all'abbazia! Ma come si fa a campare con questa perenne sfiducia? Con questo perenne accanimento? Io non dico che uno mi debba per forza assicurare, per carità, ma un minimo di elasticità. Perché non prova a pensare che il bambino magari nella torre è solo, eh? È triste, non è che posso passarci le giornate io a giocare a tappini, c'ho un'età! Prende il piccoletto, lo porto dal fratello grande che assieme si fanno compagnia, no? Se ne sta lì, rintanata tutto il giorno con quel marmocchio senza alcun motivo, poi... Ma scusa, ma se uno gli volesse veramente male, hm? Se lo volesse veramente ammazzare, non pensa che potrebbe farlo benissimo anche lì dove sono, scusa. Si fa dare le chiavi, entra di notte e glielo scozza come un capretto davanti agli occhi prima che lei possa dire beh. E allora perché non se ne sta serena? Non mi dà il marmocchio e non la fa finita, donna cocciuta! Ostinata come un mulo. Pronto? Buckingham, ci sei ancora? Mi sento tanto solo. Fu proprio durante una di queste scene, quando ormai mi ero resa conto di con chi avevo a che fare, con re Edoardo IV, che cominciai a raccontargli, insomma, quella che era la mia situazione. Ecco, che c'avevo una bambina piccola, che me la dovevo crescere da sola, che col fatto che avevo perso il lavoro non era semplice. E lui era carino, ascoltava, faceva sì con la testa. Poi a un certo punto ci ho pensato, l'ho fatto, ma te sei sposato? O l'avessi mai fatto? È diventato tutto rosso, ha cominciato a tossire, è andato tutto di traverso, tanto mi sono anche spaventata. Poi a un certo punto per fortuna si è calmato, ma ha fatto... Sai, è una questione complicata. Un altro. E ha cominciato a raccontarmi di quando da giovane l'avevano promesso in matrimonio alla sorella del re di Francia, una chiatta buzzicona che non si poteva assolutamente vedere, ma che sa, per il bene della patria aveva accettato il compromesso, per cui niente. Tutto pronto, regali, regalini, pacchetti e pacchettini, o non mi si va a innamorare di una. Una vedova con due figlioli, più grande di lui, e per di più appartenente alla famiglia dei suoi avversari politici. Un delirio! Io l'ascoltavo un bambolata, mi sembrava di stare davanti a una puntata di Beautiful. Poi ci ho riflettuto, l'ho fatto... Scusami un po', no, ma non è che tutto questo è un garbuglio? Se si venisse a sapere per caso, del matrimonio mandato a monte con la sorella del re di Francia, I due principini che hai fatto con la vedova, invece di incoronarteli, te li mandano a spalar bitume sulla tangenziale. No, tanto per capirsi. Eri diventato tutto rosso. Ha cominciato a fare, zitta, non ti ho detto nulla, senza nulla. Ha iniziato a ruffolare i pantaloni e ha tirato fuori una quantità di sordi, ma tanti. Pensavo nemmeno se ne potesse tenere così tanti in un paio di pantaloni solo io. Ha cominciato a fare, questo è per la bimba, questa è la 13ª, la 14ª, facci tutto quello che ti pare, ma mi raccomando, non fa una parola con nessuno di quello che ti ho detto. Come una tomba. E niente, mi sono ritrovato sì, d'amblè con una bella casa, due piani, con piscina. Ho mandato la bimba a scuola. E ora c'ho anche un'attività ben avviata di catering per matrimoni. Sono soddisfazioni. Ogni tanto ci tornavo anche a ribussare, ma così però sporadicamente, non volevo approfittare. Però sai, la rata della macchina, bolletta della luce, la gita alle Maldive, sospese. Lui era sempre disponibile, faceva sì con la testa. Era tanto una cara persona. Certo, ora che non c'è più, povero Edoardo IV riposi in pace, tocca organizzarsi. È il caso che una si rimbocchi le maniche. Se per caso cadesse il mondo, io mi sposto un po' più là. Sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha. La mia vita è una roulette, i miei numeri tu li sai. Il mio corpo è una moquette dove tu ti addormenterai. Ma girando la mia terra io mi sono convinta che non c'è odio, non c'è guerra, quando a letto l'amore c'è. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Pronto? Com'è bello far l'amore, io sono pronta. Vai, vai. E tu, abbassa. E che cazzo, abbassa sta cazzo di musica, vaffanculo, testa di cazzo, rotto il culo, stai lì con quelle cuffiette del cazzo, vaffanculo, porca puttana, sono carissima. Come... culo. Pronto carissima, come stai? Tutto bene? La piccola sta bene? Anch'io bene. Bene, dimmi tu. No, sono qui, un'intervista alla radio, qui con amici, sì, una situazione, sì. Sì, no, cos'è? Eh? Ma questa è una notizia stupenda, chi te l'ha? Quando l'hai saputo? Va bene, ci sentiamo presto per i dettagli, va bene? Non ti preoccupare, sì, oh, stai tranquilla, ci penso tutto io, va bene, saluta la bambina, eh? Ah, si è fatta grande, bene, bene, ciao, tante care cose, ciao. Guai a tessiarsi la musica un'altra volta, testa di cazzo rotto in culo. Pronto signor Duca, come va? Tutto bene? Mi scusi se la disturbo a quest'ora. Un po' meglio? Bene. Scusi se la disturbo, ma è che ho appena ricevuto una notizia che le farà molto piacere. Sì. Prima però le volevo domandare, non so se si ricorda quei terreni di proprietà della mia famiglia. No, perché ho qua casualmente le carte dietro e non risulterebbero edificabili. Mi domandavo però, nel caso, diciamo, io trovassi il modo di farla sedere sul trono di Inghilterra, lei non è che eventualmente potrebbe... Lei è un santo. No, niente, si trattava fondamentalmente di questo. Suo fratello Edoardo, da giovane, era promesso in matrimonio alla sorella del re di Francia, una chiatta buzzicona che non si poteva assolutamente vedere, ma che, sì, è, ecco, è. Hanno fatto re. A chi? A Riccardo. Ma che davvero, non mi sta da coglionare, no? Hanno fatto re Riccardo. E che numero? Eh? 3. Riccardo 3, che è in canale, mi devo pigliare altro de gode? Ah, Riccardo III, mazza! Gagliardo! Riccardo, non vedi? Dai, Ricca! Rompi il culo a sti froci! Che gli faccio io alle donne? Che gli faccio? Anna, Anna? Anna? Anna! Ma te ce l'hai un'idea? Ce l'hai un'idea di quello che si prova a starti qui davanti? Mai! Cosa più bella ha partorito Madre Terra? Negli occhi tuoi si affoga la natura, si trucida, si ammazza, si prende per la gola e si scotenna! Il sole, la luna, lo spazio con le stelle si vergognano di fronte a quello che il tuo sguardo vomita. Ma come non ti accorgi di quello che provochi? Sei tutto quel che muove l'universo, sei la luce, sei la forza, l'attrazione, la speranza, sei... Sei... Aspetta! Vai, Mariano! Se sta voce descida in ta nottata mentre destrigna a sposa tua vicina sta scetata sì o sta scetata ma fa veri ca durma suona china non mi vicina la strada fa spia perché non può sbagliare sta voce a è la stessa voce quando tutte e due scorno in cielo parlavamo con voi. Se è vero che ho ammazzato nel nome del tuo amore, permettimi di dirti che mai vi fu un errore, so brutto, è vero, laido e maneggione. Io pure mi vergogno a darti il malumore, ma sono sincero adesso. E credi, per favore, che non conosco pace. Se non avrò il tuo cuore. Oh, sì. Fu mai donna in tale stato d'animo corteggiata? Fu mai donna in tale stato d'animo conquistata? Ma come? Io che le ho ucciso il marito e il suocero a sorprenderla mentre il suo cuore ancora trabocca d'odio con Dio, la sua coscienza e tutti questi ostacoli contro di me ed io senza alcun amico a spalleggiarmi se non soltanto il diavolo in persona e un po' di ipocrisia eppure conquistarla da solo contro tutto il mondo. Si è già scordata del suo nobile principe, è il suo signore che io 3 mesi fa pugnalai a Tewkesbury in uno sbocco d'ira. Gentiluomo più dolce e amabile, intarsiato nella magnificenza della natura, giovane, valoroso, saggio e senza dubbio degno di regnare il mondo sterminato, non sarà in grado di riprodurlo mai più. Eppure lei ha poggiato gli occhi su di me, che per intero non valgo la metà di lui, su di me che ho stroncato la dorata giovinezza del suo nobile principe, l'ho ridotta a vetola, in un letto miserabile, su di me così storpio e deforme come sono. E mi vengo a colpo. Quella sia anche per me impossibile, mi trovo un uomo abbandonante! Il mio ducato contro un fottuto quattrino, mi sbagliavo sul mio conto in tutto questo tempo! Mi procurerò uno specchio e ingaggerò un paio di dozzine di sarti che si inventino degli abiti per farmi sembrare bello. Ah, ora che finalmente mi piaccio, voglio godermi questo stato d'animo e mantenerlo con un minimo di sforzo. Brilla bel sole! Che non avrò uno specchio che possa godermi la mia ombra quando passo! Voglio entrare in casa della gente, voglio farmi coccolare, voglio farmi abbracciare dal mondo intero, voglio farmi amare anche da chi non conosco. Un amore incondizionato, un amore incontrovertibile, un amore a senso unico! Chiamatemi sovrano, chiamatemi signore, re, tiranno, monarca, salvatore! Mi occuperò di voi, mi batterò per la vostra soddisfazione, per la vostra felicità. Che male c'è? Sono qui per voi, voi sedetevi, applaudite, gridate, gridate forte il mio nome, fatemi sentire il vostro affetto! Forza, spellatevi le mani, gridate viva, viva, viva! Siamo assolutamente... Ma su questo va benissimo. Sto solo cercando di farle capire. Sì, ma se lei provasse, signor Duca, a... Sì, ad analizzare... Non si sente abbastanza sicuro. Il fatto di essere diventato re non le basta. E dunque è deciso a fare di tutto per liberarsene. Non pensavo che l'omicidio dei due principi rientrasse nei suoi piani. Ho soltanto bisogno di un attimo per riflettere. Ma che cos'è il delitto? Qual è il limite della decenza? Come si fa a dire questo è giusto, questo è sbagliato? Stroncare nel fiore degli anni due giovani vite? Oppure lasciarle proseguire verso un inesorabile invecchiamento? Questo sarebbe stato un atto malvagio. Lasciare che il tempo, che il caso, facessero di quei due corpi preziosi l'oggetto del loro divertimento. Permettere che nei mesi, negli anni, loro non fossero più padroni di loro stessi, ma che gli inganni, le minacce, le pressioni diventassero la loro principale ossessione, che gli acciacchi, i dolori, la confusione accompagnassero i loro ultimi giorni, niente più giochi, niente più sogni. Perché? Meglio intervenire seccamente, drasticamente, fermare il momento in cui i loro occhi non siano ancora appesantiti dalle delusioni, ma lievi, sereni, restino immobili, socchiusi in tutta la loro purezza. Non lasciare che le loro labbra si avvizziscano, ma far sì che il respiro le saluti per l'ultima volta nel loro vestito più bello. Questo è un regalo. Non voglio pensare a chi crede che tutto questo sia frutto di un personale rancore. Non voglio credere che siano tutti così insensibili, incapaci di ammettere che sia la bellezza il bene più alto da salvaguardare. Il desiderio di non vederla dissolversi, ma cristallizzarla. Mettere un cuscino sulla faccia del tempo. E quando lo senti dimenarsi per l'improvviso risveglio, spingere. Spingere forte, lasciare che graffi, che si contorca in quel momento, affondare il peso, soverchiare con tutte le ossa questo puledro impaurito che vorrebbe scappare. Finché non smette di respirare. Si può fermare. Non sono io. Non sono io. Io sono buono. Sono onesto e tanto caro. Sono casto. Sono puro. Sono unto dal Signore. Sono qui perché mi ci hanno voluto. Come sarebbe a dire che non posso fare come mi pare? Che discorso è? Mi sono fatto in quattro per ottenere tutto quello che ho. Ora sarà perché tre stronzi mi vorrebbero mandare a quel paese e dovrei rinunciarci. Ah, ma penso che mi stiate sbagliando di grosso. Ho messo a disposizione di tutte le mie possibilità. Le possibilità! Sperare un giorno di riuscire. Sperare di arrivare, sperare di apparire. Povero operaio che la sera torna a casa tutto zozzo e trova una moglie unta, flaccida, con la ricrescita. Cosa pensate che possa ottenere di più? È lui il gobbo, è lui lo storpio. Io divento principe. Principe, sapete un cazzo voi. Mi fate schifo. Cavatevela da soli allora, eh? Parassiti. Pulci fameliche di un cane arrancante senza le palle. Siete voi la vergogna. Siete voi l'infamia, siete voi il cattivo modello. Se i vostri figli non hanno più obiettivi e si rifugiano nei lustrini della vanagloria, la colpa è solo vostra. Invece di cambiare, invece di lottare, aspettate come somari che arrivi qualcuno e vi bastoni, altrimenti continuate a mangiarvi l'erba sulla quale qualcun altro ha pisciato. Che schifo! Io non esisto. Siete voi che mi avete creato per far sì che qualcun altro cavalcasse i vostri vizi, salisse in groppa alle vostre perversioni e poterlo poi accusare, additare, bandire e sentirvi un po' migliori. Ma vi rode, eh? È certo che vi rode. Perché dite tutti che sono cattivo? Che cosa ho fatto per meritarmi questa? Non sono cattivo! Non sono cattivo! Non sono cattivo! Che pace. Che silenzio. Sembra quasi che tutti i rumori che avevo nella testa non esistano più. Sento fluide adesso, le idee non si incastrano più con i ricordi. Avrei voglia di un budino al cioccolato. Morbido. Un budino! Il mio regno per un budino! Una volta ho sentito dire che se un uomo perde il filo è soltanto un uomo solo. Io ci credo. Anfame! Abusi l'anime! Affogate una tazza del cesso, coglione! Coglione, sei un coglione! Arachidico! L'anima degli mortacci tua e di chi non te lo dice con la mano alzata! Mortacci tua! La magna merda! Ci cambi lei, vediamo se si può.